La tela ti annusa, ti scopre, ti ammalia, trasparente ti invita e tu non lo sai. La tela ti parla, ma senza parole. La tela si annuncia, ma senza clamore. La tela ti ascolta, ma tu non lo sai. La tela non ha orecchie, ma imbuti. La tela non ha occhi, ma occhiali a specchio. La tela non ha mani, ma tentacoli polivalenti. La tela non ha gambe, ma ali. La tela pare imprigionarti, ma ti guida, ti protegge, ti veste, ti accomuna. La tela è la mappa delle stelle legate al cielo da fili invisibili e indissolubili, da fili leggeri e insostituibili. La tela sono le vene dove scorre il tuo sangue. Sono prigioniero nella tela. Parole, battiti, note, amore, anima, poesia. Sono prigioniero perché sono vivo. E la tela sorride. Benvenuti a tutti gli ascoltatori di Radio Alma 101.9 FM con questo appuntamento della tela sonora. Mi presento a voi, dato che è la prima volta che insomma ci sentiamo, almeno nella veste di conduttore, ed è davvero un piacere essere qui con voi per quest'oretta per raccontarvi di poesia, per parlarvi di poesia. Ho voluto cominciare con una poesia che si chiama proprio La tela e che descrive quello che io penso della poesia, che cos'è secondo me la poesia, l'arte in generale comunicativa, quella fatta di parole ma anche di musica. Ed è qualcosa che ci lega, che lega tutti quanti noi, perché quando siamo ad ascoltare una canzone tutti insieme non è soltanto il caso di un concerto, può essere anche ascoltarla al proprio stereo, sul proprio iPod o appunto alla propria radio. Ognuno di noi ha le proprie emozioni, ma nello stesso momento che l'ascoltiamo abbiamo qualcosa che ci lega, che è appunto il sapere che c'è una sensibilità molto molto molto profonda che viene scossa dalle parole di un poeta, che viene scossa dalla musica di un musicista e che ci permette di sentirci veramente vivi. E questo è quello che è secondo me la tela sonora e la poesia in generale. Mi ascolterete qui con voi nell'appuntamento della tela sonora in diversi appuntamenti qui su Radio Alma. Questa prima puntata da me condotta si chiama Cara Alda. Lo scorso anno è stato un anno difficile per la poesia, visto che non avremo più nuove poesie da parte di Alda Merini che ci ha lasciato. Bene, questa puntata è interamente dedicata a Alda Merini. E come si fa per conoscere bene un poeta? Come si fa a scoprire dietro le sue poesie il suo vissuto o anche semplicemente a capire le emozioni che hanno appunto dato al poeta la spinta per mettere nero su bianco i suoi versi? Lo si può fare con le testimonianze dirette delle persone che hanno vissuto esperienze importanti e condiviso l'arte appunto con questi poeti. Nel caso di Alda Merini c'è una persona in particolare che si chiama Giovanni Nuti, un grande musicista ed anche lui non solo appassionato di poesia, ma veramente una persona, lo scoprirete in questa puntata, di una sensibilità incredibile. Bene, Giovanni Nuti ha realizzato, e tra poco ce ne parlerà anche lui e uscirà il secondo disco, ha già realizzato un CD che si chiama Rasoi di Seta e che è proprio una collaborazione con Alda Merini. Io non voglio raccontarvi nulla perché durante questa intervista sono sicuro che Giovanni, che sarà al telefono con noi, ci racconterà tante cose interessanti, ma intanto vi do proprio queste coordinate e un po' di descrizione di quello che Giovanni ha fatto. Giovanni Nuti canta Alda Merini, così si chiama il progetto artistico Rasoi di Seta, ha collaborato con Alda Merini. Alda Merini ha scritto dei testi per le canzoni di Giovanni Nuti, lo stesso Giovanni Nuti ha musicato delle sue poesie, sempre con la supervisione e con la collaborazione della stessa Alda Merini, che ha anche partecipato con la propria voce in alcune canzoni che ci sono in questo Rasoi di Seta. E poi tra poco, come vi dicevo, uscirà il nuovo progetto, purtroppo postumo, ad Alda Merini, ma con Giovanni Nuti che in nessun modo vuole lasciare da parte la poesia di questa grande donna, di questa grande poetessa o poeta, chiamatela come volete, ma sappiamo di quello che stiamo parlando, che ha lasciato un'eredità poetica incredibile, che io vi invito fin da questo momento, come prima cosa, domani mattina andate a comprare un libro di Alda Merini, andate in una libreria, nello scaffale dove c'è la poesia, e il primo libro che vi colpisce prendetelo, apritelo a caso e sono sicuro che troverete qualcosa che vi colpirà. E poi dopo ho l'impressione che quel libro davvero lo acquisterete. Bene, questa sarà una puntata un po' atipica, quindi come vi dicevo, insieme con me, insieme con Massimo Nertini, insieme con Giovanni Nuti, perché sarà tutta dedicata a lui, ma soprattutto ad Alda Merini. Adesso facciamo una piccola piccola pausa, abbiamo un piccolo intermezzo musicale e poi qui con noi, appunto, Giovanni Nuti alla tela sonora, cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio Alma, c'è Giovanni Nuti con le sue canzoni e con il racconto di una vita vissuta per un certo periodo con la grande Alda Merini in questa La Tela Sonora, cara Alda, così si chiama questa nostra puntata. State lì. Vedessi com'è grande il pensiero del mare, dove il mio dolce amore oggi è andato a pescare. Vedessi com'è grande la vela del pensiero, eppure sono solo come un vecchio mistero. Eppure sono solo come un vecchio mistero. Vedessi che coralli ci sono in fondo al mare, e lei non mi ha pescato perché doveva andare. Vedessi come piango un pianto universale, un amore così bello non doveva far male. Un amore così bello non doveva far male. Vedessi che coralli ci sono in fondo al mare, e lei non mi ha pescato perché doveva andare. Vedessi come piango un pianto universale, un amore così bello non doveva far male. Vedessi come piango un pianto universale, un amore così bello non doveva far male. Un amore così bello non doveva far male. Come vi avevo preannunciato in questa nostra prima puntata della Tela Sonora, perlomeno la prima puntata con me, Massimo De Martino, ho veramente il piacere e l'onore di ospitare Giovanni Nuti in questa prima puntata in cui parliamo di poesia e parliamo con quella che a mio parere è un po' la mamma della poesia in Italia, e di Alda Merini. Con Giovanni parleremo non soltanto di Alda Merini, ma parleremo anche della sua opera. Giovanni è un artista, a mio parere, molto importante, perché si dedica in special modo alla poesia, e non soltanto alla poesia, quella fatta di parole, ma anche alla poesia musicale, cioè a toccare il cuore attraverso le note, ed ha un percorso artistico che lo ha portato, poi ce lo sta per raccontare lui, proprio a diventare protagonista della vita di Alda Merini. Ciao Giovanni, ciao Giovanni Nuti. Ciao Massimo, grazie di avermi invitato, sono molto onorato di questa prima puntata, che sarà sicuramente una lunga serie di grandi successi. Grazie, grazie Giovanni. Allora, dicevo di questo tuo incontro, magari ecco, se ci racconti tu il tuo incontro con Alda Merini, e poi passeremo a chiacchierare di poesia. Certo. Beh, l'incontro con Alda Merini è stato per me così importante al punto da cambiarmi la vita. Non l'ho cercato, come dico spesso, le cose grandi non le vai a cercare, perché se no non le trovi. È un po' come l'amore, ti capita quando meno te l'aspetti. E un giorno entrai in una libreria e mi si aprì per caso, che poi non è mai per caso, un libro su una poesia di Alda Merini, Sandali. E leggendo questa poesia senti qualcosa di speciale, qualcosa che andava a toccare delle mie corde profonde, e ho sentito l'esigenza di musicarla, questa poesia. Quindi tutto nasce da un'esigenza di dare, di amplificare i suoi versi. E così sono andato a casa, ho musicato i sandali, poi gli ho scritto una lettera, mi ha risposto e ci siamo incontrati. Ci siamo incontrati in un bar sui Navigli e da lì, guardando i suoi occhi, ci siamo, come dire, ho capito che avevo a che fare con un essere veramente speciale. E da lì è nato tutto questo lungo percorso artistico, ma soprattutto umano, perché con Alda Merini io ho scoperto, ho visitato universi che mai sarei potuto riuscire da solo. Io con lei ho visto la poesia dappertutto. Lei ha sempre avuto questa capacità, appunto, come dici tu, di trovare in qualsiasi cosa, anche che ti posso dire, una ciglia che ci casca e va a finire per terra. Lei ha sempre trovato il risvolto poetico e la parte poetica di ogni aspetto della vita di tutti i giorni, e credo che questo è quello che ha colpito di più anche me, no? Nella sua poesia io ho sempre trovato anche degli insegnamenti, anche forti, anche rudi, perché qualche volta ne abbiamo parlato, no? Lei è una donna che diciamo, definire a volte il poeta viene visto ultimamente, perché prima non era così, in tempi antichi viene visto un po' come quello sentimentale, come dire, buonino, e invece, insomma, Alda è stata sempre una persona forte, pronta anche a mettere in gioco la violenza, questa intesa sempre e solo esclusivamente dello scuotere le anime, no? Certo, io penso che tutto questo derivi anche al fatto che il suo tunnel di sofferenza è stato grandissimo. E quindi, come dire, ha avuto una corazza enorme, e questa corazza comunque è riuscita a trasmetterla anche agli altri, perché comunque Alda Merini, anche nel mio caso, mi toglieva le sicurezze affinché io poi me le ricostruissi da solo. Questo è il compito del grande maestro. Certo, sono veramente d'accordo. Allora, Giovanni, in questo periodo, adesso parliamo un po' di te, hai appena concluso di registrare un disco. Sì, che poi sono comunque ancora legato a lei, come tu ben sai, certo. E puoi intuire. Lavoravamo a questo disco da più di un anno e mezzo e mi aveva dettato poesie inedite, che all'epoca non avevo fatto caso. Poi, dopo quello che è successo, la malattia e la sua dipartita, andando a rileggere i testi che mi ha dettato, ho scoperto che c'era, appunto, mi ha preparato al congedo, però a un congedo molto leggero, quindi questa cosa la trovo bellissima. Mi aveva preparato, io sul momento non l'avevo intuito, poi dopo ho capito che mi stava preparando, come tutti i grandi artisti. Alda Merini era una veggente e quindi sentiva e sapeva tutto. Certo, certo. Bene, allora, carissimo Giovanni, noi adesso torniamo al, cioè, iniziamo con il tuo disco, con il vostro disco, Rasoi di Seta, cominciamo con una canzone. Io devo dire che, sai, te lo dico bonariamente, ti invidio molto per questo rapporto che hai avuto con Alda Merini, ma è un'invidia bonaria, ma è anche una grande gioia, perché tu hai portato a tanti la possibilità di scoprire quella che non soltanto era una poetessa, ma addirittura un artista che forse avrebbe potuto anche lei fare la cantante e la cantautrice, o no? Guarda, assolutamente sì, anche perché io, lei me lo ha detto poi tante volte, il suo sogno era quello di fare l'attrice, di fare spettacolo, e io sono riuscito a trascinarla sul palcoscenico. Nel poema della Croce la convinsi a essere Maria, giramo quasi tutte le chiese in Italia, e quindi, ecco, come dire, non solo è una poetessa, ma, come le dicevo sempre, era una grande attrice. Una grande attrice. Adesso un carisma incredibile, un carisma che è raro trovarsi. Molto raro, che tanti hanno, non hanno purtroppo sottolineato come era giusto, ma noi lo facciamo con tanta forza, carissimo Giovanni. Adesso ci ascoltiamo la prima canzone di questa nostra puntata della Terra Sonora insieme con te. La canzone si chiama Il Bacio, la musica della tua, testo appunto di Alda Merini, che in questa canzone declama anche i suoi versi. Letti da lei sono veramente una cosa che ti tocca veramente l'anima. L'ascoltiamo, i nostri radioascoltatori così potranno, per chi non avesse mai ascoltato appunto questo connubio tra te e Alda Merini, ascoltare, e poi continueremo a parlare appunto di Giovanni Nuti, Alda Merini qui alla Terra Sonora. Adesso ci ascoltiamo Il Bacio. Grazie. Il bacio appena sognato in una notte di tradimenti, dove tutti consumano amplessi che non hanno profumo. Il tuo bacio febbricitante, il candore delle tue labbra, somiglia alla mia porta che non riesco ad aprire. Il bacio è come una vela, fa fuggire lontano gli amanti, un amore che non ti gela, che ti dà mille e duemila istanti. Ho cercato di ricordare che potevi tornare indietro, ma ahimè, il tuo bacio è diventato simile a un vetro. Io come un animale mi rifugio nel bosco per non lasciare ovunque il mio candido pelo, il pelo della mia anima. È così bianco e così delicato che persino un coniglio ne trema. Tu mi domandi quanti amanti ho avuto e come mi hanno scoperta. Io ti dico che ognuno scopre la luce e ognuno sente la sua paura. Ma la mia parte più pura è stato il bacio. Io tornerei sui monti d'Abruzzo, dove non sono mai stata. Ma se mi domandano da dove traggono origine i miei versi, io rispondo: mi basta un'immersione nell'anima e vedo l'universo. Tutti mi guardano con occhi spietati, non conoscono i nomi delle mie scritte sui muri e non sanno che sono firme degli angeli per celebrare le lacrime che ho versato per te. Il bacio è come una vela, fa fuggire lontano gli amanti, un amore che non ti gela, che ti dà mille e duemila istanti. Ho cercato di ricordare che potevi tornare indietro, ma ahimè, il tuo bacio è diventato simile a un vetro. Ho cercato di ricordare che potevi tornare indietro, ma ahimè, il tuo bacio è diventato simile a un vetro. Il bacio appena sognato in una notte di tradimenti, il tuo bacio febbricitante, il candore delle tue labbra, il bacio appena sognato. Questo era il bacio, caro Giovanni. Allora, io quello che ti voglio chiedere principalmente, è stato difficile per te poi mettere in musica dei versi che avevano già un proprio ritmo, che avevano già una loro musicalità? Oppure... Assolutamente no. Allora, le mie difficoltà con Alda Merini non sono mai state sul piano artistico. Anche perché ogni volta che... io le facevo ascoltare una mia musica, l'ha sempre approvata e guarda caso mi diceva: ma sai che è proprio quella che io sentivo per quei versi. Quindi sotto questo aspetto ho avuto la gratificazione totale da parte sua. E poi c'è da dire una cosa, che è stato tutto molto veloce. Mi dettava le poesie in 2-3 minuti senza neanche... non mi richiedeva di rileggerle, quindi doveva essere così, con a patto che io non dovessi cambiare appunto neanche una parola, e così è sempre stato. E miracolosamente la musica è sempre uscita. Lei mi raccomandava ogni volta: non fare cose complicate, perché le cose più semplici sono le cose più belle e sono le cose che arrivano alle persone, devono arrivare al cuore della gente. E in effetti, come i suoi versi, questo è proprio la forza dei suoi versi, che arrivano e alle persone colte e anche alle persone comuni, cioè non hanno una forza incredibile. È vero, sono fortissimi, leggerli è un... Mi ha raccomandato la semplicità, il fatto che i testi e anche le musiche dovevano arrivare al cuore della gente. Senti, se io dovessi definire Alda Merini come artista o come cantante, la definirei un artista rock, sei d'accordo? Rock, punk, beh, lei diciamo è stato appunto, è un artista di rottura, è un ossimoro vivente, tutto è il contrario di tutto, è per quello che a volte mi toglieva le sicurezze, perché ci giocava molto a essere tutto il contrario di tutto, quindi io non sapevo più orientarmi, e poi sinché poi con gli anni ho imparato a crearmi un equilibrio. Questa è stata la sua grande forza e il suo grande insegnamento. Quando avete insomma inciso questo bellissimo Rasoio di Seta, lei veniva in studio a registrare le parti che ha recitato? Era quindi lì con te? Certo, certo. L'unica cosa però, non si poteva far ripetere, cioè leggeva una volta, era buona quella, ecco. Era molto impaziente, quindi non dovevo troppo pretendere da lei, insomma, ecco. Beh, ma mi pare invece che... Andava benissimo alla prima, prima lettura, c'era un'emozione che, come dire, è una cosa straordinaria. Poi nella voce ci sono queste, c'è proprio un timbro che ha tutto un universo che è così strano, così misterioso. Solo la sua voce, come hai detto anche tu prima, ti arriva al cuore e ti commuove. È vero. Un'altra bellissima sua poesia è Il mio amore a quattro gatti, che adesso stiamo per ascoltare nella versione che tu appunto hai musicato, e anche in questo caso con la voce di Alda Merini che recita. Tu hai scelto delle sue cose, o è stata sempre lei a darti indicazioni su quale musicare e su quali appunto mettere musica? Beh, in questo caso devo dire che mi ha sempre dato carta bianca, quindi ho sempre scelto io quello che era più consono al mio sentire, quindi devo dire che non mi ha mai costretto, oppure non mi ha mai indirizzato a musicare dei versi piuttosto che altri, in questo ho sempre scelto io. Bene, ora ci ascoltiamo la seconda canzone, che è tratta da questo bellissimo Rasoio di Seta, e già in questo titolo insomma riesce a far capire quanto ci sia forza nelle parole, quanto due parole che sembrano così distanti, no? Un rasoio che taglia una seta invece che solitamente accarezza, avvolge, certo. Avvolge, si possa appunto trovare una forza comunicativa speciale. Questo è Il mio amore a quattro gatti, Giovanni Nuti, canta Alda Merini. Il mio amore ha quattro gatti, che mi sembrano malfatti. Non lo so, non li ho mai visti, ma mi sembrano tra egoisti. Ho pensato a lungo al caso, perché sono San Tommaso, e ho capito che il mio amore non sa darmi un po' di cuore. Ama il gatto perché è ingrato e non chiede più di tanto. Il mio amore è così. Il mio amore ha quattro gatti che mi sembrano malfatti. Non lo so, non li ho mai visti, ma mi sembran tre egoisti. Ho pensato a lungo al caso, perché sono un San Tommaso, e ho capito che il mio amore non sa darmi un po' di cuore. Ama il gatto perché è ingrato e non chiede più di tanto. Il mio amore è così, non ne posso menar vanto. Vuol soltanto sentir messa e rifiuta la ricchezza. Lui mi canta col pensiero, il mio amore è sempre nero. Ma credo proprio che sti gatti addormentati siano simili a qualcosa che ancora non ho scoperto. Il mio amore è proprio incerto, ama spesso chi tradisce. Il mio amore mi avvilisce, il mio amore mi avvilisce. Ama il gatto perché è ingrato e non chiede più di tanto. Il mio amore è così, non ne posso menar vanto. Vuol soltanto sentir messa e rifiuta la ricchezza. Lui mi canta col pensiero, il mio amore è sempre nero. Ama il gatto perché è ingrato e non chiede più di tanto. Il mio amore è così, lui mi canta col pensiero, il mio amore è sempre nero. Non lo so, ma credo proprio che sti gatti addormentati siano quattro assatanati. Forse fan le messe nere con le quattro mie megere che stan qui in questo palazzo. Non capisco, non capisco proprio mai. Dopo aver ascoltato Il mio amore a quattro gatti, torniamo alla tela sonora insieme con il nostro ospite di questa puntata, Giovanni Nuti. Giovanni, adesso cominciamo a parlare un pochettino della poesia con te. Tu sei evidentemente molto legato alla poesia, credo al di là dell'incontro importante con Alda Merini, tu ne fossi legato anche precedentemente. Sì. Qual è il tuo rapporto con la poesia? Un rapporto quotidiano? Leggi? Scrivi? Porto alla sin da ragazzino musicavo il Pascoli, tanto per darti l'idea. Quindi, una cosa facile da fare, diciamo. Quindi mi ricordo ancora, avevo 9-10 anni, che musicavo Rondini addio, ecco, una cosa melodrammatica. Uh-huh. E quindi c'è sempre stato un po' il richiamo, è sempre stato comunque un'esigenza. Poi strada facendo, sì, poi anche quando facevo gli incontri a casa mia con amici, eccetera, c'era un po' questa passione di declamare dei versi, è un po' la vita da bohème. E poi sono passato a García Lorca, ho musicato dei suoi versi, sino a che poi, come ti ho detto, è arrivata Alda Merini e lì veramente c'è stato il clamore, c'è stato il cambiamento della mia vita. E ecco, il mio rapporto con la poesia è appunto quotidiano, perché io ritengo che la poesia sia cibo per l'anima e ce n'è bisogno, perché comunque il cibo spirituale ti dà gioia e la gioia si ha soprattutto da questo. Ma tuoi versi scritti ce ne sono da qualche parte? Io questa è una cosa che non so e che ti chiedo per la prima Sì, volta. ho inciso degli album con i miei testi in collaborazione con Paolo Recalcati, che è un autore che Alda Merini amava molto e con il quale ho inciso alcuni album, e con il quale la collaborazione continua. E sì, ci sono indubbiamente, ho scritto delle cose, però sono più, come dire, ho più questa predisposizione alla musica che non ai testi. So anche che dopo il tuo incontro con Alda Merini, dopo che qualcuno ha appunto scoperto questa tua grande dote di musicare, ti hanno, immagino, ti hanno mandato tantissimi versi, no? Ti hanno chiesto in qualche modo di musicarli. Beh, questo ovviamente è inevitabile, è una cosa inevitabile, però ci vuole tempo prima che io possa dedicarmi ad altri poeti, Certo. anche perché poi il poeta va anche vissuto nella quotidianità Sono d'accordo, sono d'accordo. per capire, per sentire la sua essenza, quindi musicare un testo senza conoscere il poeta penso che non sia facile. Ecco, questa cosa che hai detto è una cosa importantissima. Questo fa capire quanto il tuo percorso artistico e umano sia stato importante, che questo non sia stato mai, perché ce ne sono purtroppo molti nell'arte italiana, non è stato mai una scelta di convenienza. Nel Ma senso, non avrei potuto, anche perché esatto. no, Lei non non te l'avrebbe sarebbe permesso. piaciuto. No, poi non è stato così vantaggioso se non fosse stata una scelta, proprio un'urgenza mia. Anche Certo. perché ho passato anni in cui, anche con la discografia, musica e poesie, ma no, non vendono, non sono Certo. cose non commerciali, quindi per cui sono comunque rimasto anche un po' al margine. Nonostante questo, ho sempre avuto la tenacia di portare avanti quello che sentivo, perché dicevo, ma io se io sento questo, io non posso altro che trasmettere quello che ho dentro, io adesso sento questo. Quindi ho preferito stare anche in disparte, però continuare a musicare Alda Merini per me e ovviamente accontentandomi di fare meno concerti, però quelli che facevo, di farli come sentivo io, appunto. Ascoltiamo un'altra canzone con i versi di Alda Merini. I versi sono tratti da un libro che si chiama Clinica dell'Abbandono. La canzone si chiama Prima di venire, sempre È tratta da. meravigliosa questa Sì, poesia, sì, se mi sì. fai dire due parole su Come no, questa. come no. Io considero il mantra dell'attesa. Alda Merini la scrisse un giorno che stava aspettando Vincenzo Mollica. E stava aspettando lui e così scrisse questi versi che sono di una meraviglia incredibile. Io ogni volta che la canto in pubblico mi emoziono perché sono veramente splendidi. Ce le ascoltiamo. Prima di venire, Giovanni Nuti canta Alda Merini. Prima di venire, portami tre rose rosse. Prima di venire, portami un grosso ditale, perché devo ricucirmi il cuore e portami una lunga pazienza, grande come un telo d'amore. Calcio al muro di fronte, perché lì dentro c'è la spia che ha guardato in faccia il mio amore. amore prima di venire, ma di venire so chiudi piano la porta. E se io sto piangendo, ma di chiama i violini migliori. Venire, dimmi che sei già andata via. Perché io mi spaventerei e prima di andare via, smetti di salutarmi, perché a lungo io non vivrei. Adesso anche i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici della Terra Sonora hanno potuto apprezzare quello che è veramente un testo incredibile, davvero. Si chiama Prima di venire, l'abbiamo appena ascoltato, siamo in compagnia di Giovanni Nuti. Tra l'altro, come dicevi prima, anche in questi versi c'è tanta semplicità, ma è di quella semplicità che lascia quasi spaesati, no? Perché leggendoli si scopre improvvisamente che una cosa semplice ci può risvegliare a provare delle emozioni, ma provarle noi, che credo che questo sia una delle cose più importanti che tu hai fatto e che fai con la tua scelta artistica. Siamo in un periodo culturale molto difficile, nel quale le emozioni sono sempre traslate, cioè si guarda la televisione, si vivono emozioni guardando gli altri, e si è perso questo concetto che invece le emozioni andrebbero provate sulla propria pelle. Siamo in un periodo di transizione in cui c'è da una parte il vuoto e dall'altra un mondo in fermento. Io credo molto nei giovani e nei loro valori nuovi, che sono comunque valori sani, al di là, voglio dire, delle droghe, eccetera, eccetera. Ma se tu prendi dei ragazzi, hanno veramente dei grandi valori e io credo molto in loro. Però dall'altra parte abbiamo queste televisioni, queste radio che trasmettono, non parlo della tua ovviamente, della vostra, ma che trasmettono il vuoto. Sì. Quindi c'è veramente questa grande contraddizione, c'è una richiesta di contenuti e dall'altra ci sono i mezzi di comunicazione che ti trasmettono delle cose senza senso, delle cose che ti abbassano l'energia e comunque che non ti danno nulla. Quindi io penso che ci sarà questo capovolgimento, stiamo toccando il fondo, ma ci sarà una rinascita molto presto. Questa è una considerazione molto bella quella che hai fatto, Giovanni, proprio questo, cioè che si parla spesso dei giovani, si parla come dei giovani che sono in qualche modo disadattati, che pensano solo a determinate cose, che sono una sorta di gioventù bruciata moderna, mentre invece, secondo me hai ragione tu, la richiesta di cose importanti c'è, non gli danno quello che chiedono e si trovano spaesati, no? Quando è come dicevi tu, quando all'inizio di questa intervista sei andato in quella libreria e ti si è aperta la poesia di Andamerini. Se ci fosse più possibilità per i ragazzi di capire, di scoprire la propria strada, credo che sarebbe una generazione veramente fortissima, lo può diventare. Noi insomma facciamo quello che possiamo, tu con la tua musica. Assolutamente sì, e per fortuna ci sono persone come te, e io credo molto in persone come te, che danno spazio anche a un certo tipo di musica. che tra l'altro mi fai ricordare un particolare legato a te, se posso. Certo. Molto molto delicato, molto dolce, molto tenero. Io portai a Valdamerini un tuo libro. Sì. E, ti ricordi? E sei stato l'unico poeta che io ho portato a Valdamerini. Apprezzò molto le tue poesie e per molto tempo vidi il tuo libro sul suo comodino. Mi hai fatto un regalo incredibile, non sai che grande regalo mi hai fatto in questo momento. Lo so. Come dire, come mai proprio te? Perché doveva essere così. Tu mi desti appunto questo libro, sì, e io glielo consegnai e fu veramente fu molto apprezzato da lei. Quindi ci tenevo a dirlo, perché quando le cose sono vere è bello dirlo. Grazie Gianni, in questo momento l'emozione è talmente forte, io direi, visto che avrei difficoltà a farti qualsiasi tipo di domanda, ci ascoltiamo la tua canzone che si chiama La Zanzara, che è bellissima, è splendida, tra l'altro vedi poi dici le cose non capitano a caso, tu, insomma noi quando ci siamo incontrati io insomma, ti chiesi il tuo autografo sul CD, come giusto che sia, e me l'hai scritto proprio vicino a questa canzone, La Zanzara, che è una canzone bellissima a mio parere, perché farà capire anche ai nostri radioascoltatori che quando si parla di poesia, la poesia ha una forza ritmica, la poesia ha una forza di gioia, la poesia ha una forza in tutti i tipi di sentimenti che va appunto ascoltata in tutte quelle che sono le sue sfaccettature, e questa La Zanzara è credo tu abbia fatto un lavoro fantastico, anche perché ci sono tanti musicisti in questa La Zanzara, no? Credo che sia una delle canzoni delle quali ci sono più musicisti delle quali è registrata. Nel disco della Zoe di Seta avevo coinvolto 80 musicisti, se non di più, avevo fatto proprio una cosa in grande, quindi come dire, i musicisti sono importanti quando si fanno i dischi, no? Ecco, che sembra una banalità, che hai detto, ma non lo è. Non lo è. Sono veramente l'essenza. Al di là della mia scrittura e della mia voce, però senza i musicisti non avrei potuto fare molto. Ce l'ascoltiamo, questa è La Zanzara, Giovanni Nuti canta Valdamerini, il CD del quale stiamo ascoltando queste canzoni, Rasoi di Seta. Avevo un grande stabile, ero stabilmente sicuro di essere padrone dell'intero universo. Avevo una piccola casa che stava dentro a un dito, e con questa mia casa giravo all'infinito. Poi malgrado la porta è entrata una zanzara, la zanzara, la zanzara, una specie assai rara, assai rara, assai rara, di che tipo non so, portava una gonnella, era abbastanza bella, mi punse sulla lingua e non ti scrissi più. Questa zanzara folle apre le mie finestre, calpesta le mie zolle, io non ti amo più, è gelosa del canto, persino delle scale, un po' scende, un po' sale, tiene la testa all'ingiù, è una bambola matta assieme ad un coniglio che ha portato scompiglio dentro la terra mia. Suono un'Ave Maria e prego intensamente di diventar demente per non soffrire più. Questa zanzara folle apre le mie finestre, calpesta le mie zolle, io non ti amo più, è gelosa del canto, persino delle scale, un po' scende, un po' sale, tiene la testa all'ingiù, è una bambola matta assieme ad un coniglio che ha portato scompiglio. Dentro la terra mia suono un'Ave Maria e prego intensamente di diventar demente per non soffrire più. Giovanni Nuti è ospite qui a La Tela Sonora, Giovanni Nuti che ci racconta la sua storia musicale di questo bellissimo CD, adesso poi parleremo anche delle novità che ti riguardano, la sua ediseta. Quando parlavamo, no, che da ogni cosa Alda Merini riusciva a trovare poesia, penso che nessun altro avrebbe mai pensato che una zanzara potesse essere una cosa poetica, no? Anzi... Poi la zanzara, come tu ben sai, erano i vicini di casa che Alda Merini non amava molto, però anche in questo caso lei è sempre stata una contraddizione in tutto, quindi da una parte davano a lei fastidio, dall'altra poi invece lei voleva molto bene loro, certo. Quindi c'è sempre stata questa dicotomia. E appunto la zanzara è un po' la metafora del vicino di casa che ti rompe, ecco, quindi. E poi lei amava divertirsi, la cosa che mi ha insegnato, e lei mi diceva sempre, non far passare una giornata senza una bella risata, perché senza una risata la giornata non ha nessun senso, come la vita non ha senso se non coltivi la gioia. Perché noi veniamo su questa terra per vivere una vita serena di gioia, non per soffrire. Quindi c'è la sofferenza, serve sino a un certo punto, ma poi va abbandonata, se no diventa una patologia. Quindi la sofferenza va usata, però poi dopo l'obiettivo della vita non è la sofferenza, ma è la gioia. Quello di cui stiamo parlando è un grandissimo disco ed è una grandissima opera d'arte. Io ti chiedo questo perché insomma vivo nella musica e nella radio da tanti anni. Lo so, certo. È quello che tu hai detto prima, cioè del vivere ai margini, del comunque fare una scelta, cioè poi vivere ai margini, non una tua scelta di vivere ai margini, ma vivere ai margini perché sapevi benissimo che quella strada doveva essere percorsa per te. Ecco, come vanno le cose? Nel senso, sta cambiando qualche dannata cosa o no? Sta cambiando, assolutamente sì, e ti dico subito, ti do un segnale. Sì. Ora uscirò con una grande casa discografica e uscirò con il nuovo album, che è una piccola app furibonda, e in più Rasoi di Seta, quindi sarà un doppio album. Quindi che una major pubblichi un doppio album, penso che questo in un momento come quello che stiamo vivendo sia un grandissimo segnale. Bene, questo è una cosa che mi rende felice in generale per il panorama musicale, ma anche per te. Gli uomini della musica, tu insomma li frequenti da tanto tempo, sta cambiando anche qualcosa da questo punto di vista? Perché per tanto tempo, e questo solo nella nostra Italia, che spesso insomma portiamo al punto più basso prima di cercare di salire, non è stata fatta più di uomini che amavano l'arte o di donne che amavano l'arte, ma è stata fatta dei famosi manager. E quando si pensa solo e esclusivamente a quello che può essere un profitto materiale ed economico, è chiaro che l'arte va da parte. Assolutamente no, ma voglio dire, la situazione adesso della musica leggera italiana è drammatica. Se tu pensi che hanno solo possibilità questi ragazzi che escono da X Factor piuttosto che da Amici, sì, e poi si dà loro la possibilità di fare un singolo, quindi vengono sfornati centinaia di singoli, un po' come vincere la Superenalotto. Se poi un singolo funziona, allora poi fanno fare l'album, eccetera, eccetera, se no ti mettono da parte. Quindi come possono nascere, crescere gli artisti? Un tempo, il tempo di Dalla, di Gregori, c'erano proprio le case discografiche che ti stipendiavano, che permettevano all'artista di crescere. Di sbagliare anche dei dischi, perché era il percorso giusto. Sì, ma un artista deve sbagliare, deve deve fare un percorso che è naturale, ma in questo modo io non vedo come possano uscire fuori dei nuovi artisti, non possono, non viene data loro la possibilità. E questo è giusto quello che hai detto, cioè nel senso non possono venire fuori, non che non ci siano, non vengono. Assolutamente ci sono, ma l'artista ha bisogno come una piantina di un po' d'acqua ogni giorno, se no muore. Ed anche di un giardiniere che lo coccoli, insomma. Ma io se avessi fatto il primo singolo e poi fossi stato messo da parte, io non avrei fatto questo percorso con Alda Merini. Certo. Cioè, in parte che io sono un caso speciale perché ho avuto una tenacia di ferro e non ho più seguito poi la discografia, perché comunque i discografici, come saprai anche tu, purtroppo potrebbero fare tutto fuorché discografici, penso. Sì, che è vero, è vero. No, cioè, ce ne potrà essere uno che capisce qualcosa di musica. Sì. Per lo più possono fare, come dire, occuparsi di pasta piuttosto che di detersivi, cioè non sanno che hanno a che fare con gli artisti, che gli artisti hanno un'anima, comunque non sono degli oggetti, e mentre loro pensano solo a fare il fatturato e pensano solo ad avere i loro vantaggi, poi soprattutto in questo momento che sono loro le vere star, perché in televisione vanno loro. È così, è quello che stavo per dirti, guarda, mi hai praticamente letto nel pensiero. Lo trovo scandaloso, perché sì. Vedere dei presidenti di multinazionali sono d'accordo. A fare le star, cioè sono loro che vanno, fanno i viaggi, i grandi alberghi, il lusso, eccetera, sono loro le vere star. Sì, io l'ultima generazione di discografici l'ho sempre vista come una sorta di artisti, uso la parola in maniera spropositata in questo caso, mancati. Ma diciamo la verità, insomma, perché dobbiamo nasconderci? La Merini mi ha sempre insegnato a dire di quello che pensi e non aver paura di nulla. Cioè, sono persone che volevano fare gli artisti. Esatto. E hanno cambiato, come dire, hanno preso quella strada e così hanno ancora più vantaggi. Comunque gli artisti fanno lo stesso. Certo. Però ammazzano veramente gli altri artisti in questo modo. Certo, perché un grande artista, cioè un grande discografico, ha sempre lavorato dietro le scene, perché è stato sempre il suo compito quello di guidare l'artista a crescere, a portare a tutti l'arte vera. Allora Giovanni, concludendo con loro, sono così vacanti, nel senso che oggi ci sono e dopodomani vengono licenziati, quindi cercano di portare più acqua al loro mulino, è un po' una cosa naturale, è un fatto di sopravvivenza. Allora, siamo arrivati sull'orlo della grandezza. Tu ci sei mai stato, Giovanni, sull'orlo della grandezza? Ma devo dire, con Alda Merini in alcuni momenti sì. Come ti dicevo, lei ha questa capacità di farmi vedere nel fango anche i fiori, quindi con lei ci sono riuscito, devo dire. Noi ce l'ascoltiamo, appunto, la canzone con il testo di Alda Merini sull'orlo della grandezza, la musica è appunto di Giovanni Nuti, l'album bellissimo è Rasoi di seta. Quando ti investe un sentimento vero che è come l'uragano e tu hai paura di perdere la luce e di smettere di vedere le piccole cose di ogni giorno, e pensi che qualcuno inopinatamente voglia darti qualcosa sulle spalle, non capisci se è un cadavere o una grande vittoria, allora tremi dalla paura e non sai chi sia il portatore di questa chiamata che ti prende le gambe, te le fa tremare. Vorresti parlare, ti si inceppa il volto. Vorresti ridere, diventi un ghigno di lebbra. Ad un certo punto ti senti bello come Lucifero e non sai che questa resurrezione non è un'adolescenza, ma è la maternità della luce che hai sempre avuto nel grembo. Quando ti investe un sentimento vero, che è come l'uragano, e tu hai paura di perdere la luce e di smettere di vedere le piccole cose di ogni giorno, e pensi che qualcuno inopinatamente voglia darti qualcosa sulle spalle, e non capisci se è un cadavere o una grande vittoria, allora tremi dalla paura e non sai chi sia il portatore di questa chiamata, che ti prende le gambe e te le fa tremare. Vorresti parlare e ti si inceppa il volto, vorresti ridere e diventi un ghigno di lepre. A un certo punto ti senti bello come Lucifero, e questa resurrezione non è un'adolescenza, ma è la maternità della luce. Che ti prende le gambe e te le fa tremare. Vorresti parlare, ti si inceppa il volto, vorresti ridere, diventi un ghigno di lebbra. Ad un certo punto ti senti bello come Lucifero. In questo caso versi bellissimi, e Alda Merini che recita una parte di questa poesia, che ci toglie la possibilità di leggerla in qualsiasi altro modo che non sia quello che l'ha fatto lei, no? Tu l'hai cantata, ma se avessi dovuto leggerla sarebbe stata tosta, no, Giovanni? Solo il filo della sua voce ti fa scoprire cose che mai avresti potuto vedere prima. È la voce che ti trasporta. È vero, la sua voce è veramente una voce interiore, è incredibile. Io ho la fortuna di avere la sua voce registrata in due album, quindi, come dire, è un patrimonio per me di gioia. Che per fortuna riusciamo a condividere insieme. Adesso passiamo a quello che è invece il tuo ultimo lavoro, Una piccola ape furibonda. Ascolteremo tra poco questa canzone. Ho una grande curiosità, non te lo nego, insomma, di ascoltarlo al più presto. Abbiamo preso degli aforismi, io con Alda, i suoi aforismi, ne abbiamo scelti alcuni, quelli più ironici, anche quelli più toccanti. E abbiamo dato il titolo Una piccola ape furibonda perché lei amava definirsi così, quindi lei era sempre arrabbiata, almeno nell'apparenza, e mi diceva: se vedi che non sono arrabbiata, preoccupati, perché vuol dire che sto male. Quindi era il fatto di essere vitale. Ed è nata questa poesia, questa canzone con i suoi aforismi, che dà appunto il titolo al cofanetto, come ti ho detto prima, al doppio album che uscirà nel 2010. E così i nostri ascoltatori sanno bene che possono avere quello che hanno ascoltato quest'oggi, ma insomma, poi l'album Rasoi di Seta, noi abbiamo ascoltato cinque canzoni, ma è un album intensissimo, ce ne sono insomma tante, 21, sì. 21, e quindi possono veramente scoprire il mondo tuo e di Alda Merini. Poi il consiglio più importante è quello di acquistare non soltanto quello che è il tuo disco, e noi terremo informati, poi sicuramente da una promessa che devi farmi, ma so che insomma non è nulla di grave per te, anzi so che lo farei volentieri, che appena poi ci sarà l'intero album ci risentiamo Assolutamente una gioia, un onore, come tu ben sai. e quindi chiacchiereremo. I nostri Ti stimo ascoltatori. molto, quindi è bello fare delle interviste con te, Massimo. Grazie, grazie Giovanni. E acquistare il tuo disco, acquistare la poesia di Alda Merini. Adesso vengono fuori un sacco di edizioni, un sacco di cose, perché poi, come diciamo prima, c'è chi è pronto anche a sfruttare l'onda. Ma in questo caso, se trovate anche un'edizione tascabile, compratela, avvicinatevi alla poesia di Alda Merini, perché veramente vi si aprirà un mondo diverso rispetto a quello che si vive tutti i giorni. Giovanni, io sarei ancora molto tempo a chiacchierare con te, lo sai, ma diciamo che questa è la nostra prima chiacchierata nella tela sonora, ne avremo tante altre. Importante, è stato molto importante, sono molto felice di questo e, come ho detto prima, sarà la prima di una lunga serie fortunata. Grazie, grazie, e in questa serie tu ci sarai sempre e spesso, perché tutti i nostri ascoltatori ti hanno conosciuto per insomma, la persona speciale che sei. Io è veramente, guarda, un onore averti avuto qui, perché abbiamo cominciato con il piede giusto ed era quello che intendevo fare in questa mia edizione della Tela Sonora, parlare di poesia senza lasciare da parte quelli che sono i problemi da affrontare tutti i giorni, che vanno affrontati con una forza più vicina all'anima e al cuore che non a cose più materiali. Giovanni, ti ringrazio, ci ascoltiamo Grazie per a te. Ringrazio chiudere. tutti i radioascoltatori, veramente auguro a tutti tanta fortuna. Chiudiamo con una piccola ape furibonda. Mi chiudi con un piccolo ricordo ancora di Alda Merini, qualcosa che anche divertente che ti ha lasciato, perché come Ma dicevi. guarda, Alda Merini, che poi hanno scritto cose inesatte, tipo che è nata povera, eccetera, però posso dirti e posso dire a tutti i radioascoltatori che i soldi ne entravano tanti, però come entravano, così li distribuiva a tutti. Quindi uscivamo, c'è una bellissima scena che un giorno siamo scesi sul naviglio, lungo il naviglio, ed è arrivata una ragazzina rom a chiedere l'elemosina, e Alda Merini teneva sempre i soldi nel reggiseno, come portafoglio, e mise le mani appunto nel reggiseno e tirò fuori due banconote da 50 euro, quindi 100 euro, e gliele diede. E questa ragazzina a un certo punto la guardò e cominciò, prese i soldi, cominciò a fare dei salti come una farfalla, dei salti incredibili. Cioè, è come la scena di un film di Fellini. Questo per farti capire la sua generosità. E infatti lei mi diceva: vedi perché i soldi mi ritornano sempre? Perché io li faccio girare. Bellissimo, grazie, grazie davvero di tutte le emozioni di questa tela sonora. Giovanni, ci ascoltiamo Buona una giornata, grazie. piccola ape furibonda. A presto, ciao. Presto. Cicabum, cicabum. Cicabum, cicabum. Chi regala le ore agli altri vive in eterno. Gli orologi non sono mai andati agli appuntamenti. Si può essere qualcuno semplicemente pensando. Si può essere qualcuno semplicemente pensando. La nevrosi è qualche cosa di circoscritto al pube. C'è chi si masturba per non perdere l'orientamento. Il sesso è sempre stato il puntiglio di Dio. Il sesso è sempre stato il grande puntiglio di Dio. È una zattera che corre verso il divino. Si va in manicomio per imparare a morire. Nessuno mi pettina bene come il vento, la pazzia mi visita almeno due volte al giorno. Confondere la merda con la cioccolata è privilegio di persone colte. Sono una piccola ape furibonda, sono una piccola ape furibonda. La nudità mi rinfresca l'anima. Ho avuto 36 amanti più IVA. Nessuno rinuncia al proprio destino, anche se è fatto di sole pietre. I folli sono quelli che resistono agli amori facili. Non ho paura della morte, ma ho paura dell'amore. Ogni uomo inventa il suo tipo d'amore. Ci sono giorni che non si staccano dalle pareti. Ci sono notti che non accadono mai. Illumino sempre gli altri, ma io rimango sempre al buio. Sono una piccola ape furibonda, sono una piccola ape furibonda. Sono una piccola ape furibonda, sono una piccola ape furibonda. Sono una piccola ape furibonda, sono una piccola ape furibonda, sono una piccola ape furibonda. Cicabum. Con questa bella novità di Giovanni Nuti e Alda Merini, una piccola ape furibonda, l'abbiamo chiuso anche con un po' di ritardo questa puntata della tela sonora dedicata ad Alda Merini, ma credo ne valesse la pena per ascoltare fino in fondo le note che Giovanni Nuti ha scritto sulle poesie appunto di Alda Merini. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati insieme con noi, naturalmente qui su Radio Alma torna la settimana prossima la tela sonora ancora con tanti argomenti che riguardano musica e poesia, ma soprattutto le emozioni. Da parte di Massimo De Martino a voi auguro di un buon proseguimento con i programmi di Radio Alma. Noi ci sentiamo alla prossima tela sonora che affronteremo insieme. Andate sul nostro sito per saperne di più e anche per riascoltare questa puntata della tela sonora. A tutti un abbraccio e un saluto poetico da parte di Massimo De Martino. Buona serata.